Diritto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Il rischio di nuovi attacchi terroristici in Europa è alto, dicono i servizi segreti, e potrebbero esserci infiltrazioni dai Balcani. L'Italia sempre più esposta alla minaccia. Il super martedì delle primarie americane, vincono Trump e Clinton e sono sempre più vicini alla nomination. I repubblicani si spaccano. Per la gestione dell'emergenza umanitaria in arrivo 700 milioni di euro alla Grecia. Appello del Papa, giustizia e soccorso. Il governo mette la fiducia sul DDL per l'istituzione dell'omicidio stradale. Proteste del Movimento 5 Stelle, vogliamo votarlo. Ipotesi di assalto degli azionisti ai vertici. Sarà blindata l'assemblea di sabato della Banca Popolare di Vicenza. Un centinaio gli uomini delle forze dell'ordine schierati. Per il calcio stasera in campo Inter e Juve per la Coppa Italia, mentre alcuni club inglesi starebbero pensando ad una Champions riservata ai club più ricchi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, il 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri messaggi su WhatsApp, così come l'email effettogiorno@radio24.it. Iniziamo parlando di terrorismo in una giornata nella quale è arrivato il rapporto annuale dei servizi segreti e che parla appunto anche di terrorismo islamico, e poi ci sono anche delle dichiarazioni di pochi istanti fa del ministro dell'economia Piercarlo Padoan in merito al finanziamento del terrorismo e quindi al riciclaggio. Ma iniziamo appunto dal rapporto degli 007. Dagli 007 italiani arriva un nuovo allarme terrorismo. Il rischio di nuovi attentati in Europa è alto e anche l'Italia appare sempre più esposta alla minaccia jihadista, sostengono i nostri servizi di intelligence nella loro relazione annuale al Parlamento. Al momento non sono emersi riscontri specifici di attacchi in preparazione, ma i riferimenti al nostro paese sono sempre più presenti nella propaganda dell'ISIS, specie in relazione al Giubileo e al ruolo italiano nella crisi libica. Secondo i servizi non ci sono prove per ora anche di infiltrazioni di terroristi nei flussi migratori dal Nord Africa, mentre il rischio si presenta più concreto lungo la rotta balcanica, zona di transito privilegiata dai foreign fighters. Gli 007 nel loro rapporto invitano a valutare con estrema attenzione i crescenti segnali di consenso verso l'ideologia jihadista emersi nei circuiti radicali online, frequentati anche da soggetti molto giovani, nati o cresciuti in Italia, e mettono anche in guardia dal rischio che il proselitismo possa avvenire anche all'interno dei penitenziari, dove i detenuti comuni potrebbero essere più vulnerabili a percorsi di radicalizzazione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Questo il quadro del rapporto dei servizi. Come si diceva, ne ha parlato pochi istanti fa anche il ministro dell'economia Piercarlo Padoan in un importante convegno organizzato all'Università Luis Guido Carli di Roma proprio sul tema del riciclaggio del denaro e quindi delle fonti di finanziamento del terrorismo. Nazareno Orlandi sta seguendo i lavori per noi. Nazareno, buongiorno. Simone, buongiorno. Buongiorno a te. È proprio così. Lotta al riciclaggio significa anche lotta al terrorismo. Questo è il messaggio che parte dal convegno organizzato, come ricordavi, alla Luis, da Guardia di Finanza e da Associazione Bancaria Italiana. Tra gli spunti, la necessità di armonizzare le regole europee, soprattutto per combattere il finanziamento al terrorismo. E proprio su questo è intervenuto pochi minuti fa il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Sentiamo un passaggio. Siamo di fronte ad una proliferazione di una rete internazionale di finanziamento del terrorismo che sta inquinando e che quindi potrebbe avere conseguenze di altro tipo i sistemi finanziari dei mercati e di conseguenza richiede una particolare attenzione. Particolare attenzione dunque richiesta dal ministro Piercarlo Padoan, ma una proposta per combattere il riciclaggio è arrivata anche dal presidente della l'ABI, Antonio Patuelli, è la richiesta di ritirare dalla circolazione la banconota da 500 euro. Sentiamo perché. Sono uno strumento facile per il riciclaggio, non si trovano più in Italia e per l'Italia è un importo sproporzionato all'abitudine della circolazione del denaro. Ed è tutto. Grazie a Nazareno Orlandi per questo aggiornamento. Si va lentamente componendo, ma ancora in assenza di un governo del paese, passo preliminare fondamentale, la coalizione che dovrebbe agire in Libia per contrastare l'ISIS. Sarebbe stato creato a Roma un centro di coordinamento degli alleati. Dall'Iraq arrivano intanto notizie di un'importante cattura ai danni dell'ISIS avvenuta da parte degli americani. È una figura di alto rilievo dell'ISIS, l'uomo fermato nel blitz di una squadra dei Delta Force americani nel nord dell'Iraq. Un'operazione di cui ha parlato la CNN e che è stata fondamentalmente confermata, ma senza dettagli. Il detenuto, si è saputo, viene interrogato dagli americani e poi sarà consegnato agli iracheni nei prossimi giorni. I miliziani dello Stato Islamico si starebbero intanto spostando massicciamente verso la Libia, dove molti paesi occidentali sono segretamente all'opera con i loro 007. Ci sono anche gli italiani, come ha confermato la relazione annuale dell'intelligence inviata oggi al Parlamento. Intanto si continua a lavorare a un eventuale intervento militare in Libia, il cui coordinamento sarà a Roma, ha rivelato il Wall Street Journal. Le opposizioni hanno subito chiesto a Matteo Renzi di riferire al Parlamento di questi piani, ma il premier frena. Per evitare gli errori del passato, dice, prima si devono aiutare i libici a formare un governo, che potrà chiedere l'intervento della coalizione e, ottenutolo, terrà le redini della nuova Libia. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Resta in primo piano, in parte collegato evidentemente a tutto questo, il tema dell'immigrazione, la pressione che c'è in queste ore al confine tra Grecia e Macedonia, mentre per Atene dovrebbero arrivare aiuti che permettano di fronteggiare l'emergenza umanitaria. Sul tavolo di Christos Stalianides, il commissario europeo per gli aiuti umanitari, la bozza è pronta. In queste ore si tratta di limarla e poi vararla. Parliamo di un piano da 700 milioni in 3 anni per far fronte all'emergenza profughi. 300 saranno disponibili già quest'anno e verrebbero destinati in gran parte alla Grecia, che proprio in queste ore sta facendo fronte all'emergenza al confine con la Macedonia, dove 10.000 persone sono accampate e da giorni tentano di forzare il blocco. Stamattina le autorità macedoni hanno autorizzato la riapertura per 4 ore della frontiera. La tensione resta alta, come resta alta a Calais. Prosegue stamattina lo smantellamento. Davanti alle ruspe, però, molti sono già scappati a 35 chilometri nel bosco della Grande Sinte, che già viene chiamato The New Jungle, la nuova giungla. Uno di loro è Ali. Watch the whole situation here. It's hard for a human to live. Guardate qui, dice Ali, è difficile per un essere umano vivere nel fango, senza servizi igienici, sotto la pioggia, in baracche, ed animali. Speravamo di essere arrivati in un mondo migliore, dice Ali alla telecamera di Medici Senza Frontiere, ma non è così. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questi temi ha parlato anche il Papa questa mattina in udienza generale davanti a circa 20.000 fedeli. Ha parlato appunto di migranti e lanciato un nuovo appello. Cercate la giustizia, pensate a tanti, tanti profughi che sbarcano in Europa e non sanno dove andare. Così dunque il Papa. Abbiamo sentito poco fa delle parole del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan sui temi del riciclaggio, ma Padoan è tornato a parlare anche dei dati economici che sono stati diffusi ieri e che erano l'apertura, come ricorderete, di Effetto Giorno. Stamattina ha parlato anche il Ministro del Lavoro, Poletti. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Eh sì, buongiorno, è il momento di una maggiore riflessione da parte del governo sul significato dei dati diffusi dall'Istat. È un quadro nuovo che emerge, spiega Padoan, c'è crescita dopo molti anni trainata da consumi e investimenti, c'è una finanza pubblica assolutamente sotto controllo nel deficit e nel debito che si è stabilizzato e che comincerà a scendere nel 2016. La pressione fiscale, spiega il titolare dell'economia, scende, tutto ciò produce più lavoro e di migliore qualità, fatto di contratti a tempo indeterminato. Il ministro Padoan ripete quindi che Italia le tasse sono fondamentali e devono essere credibili e sostenibili, perché altrimenti non danno il segnale che le tasse si abbattono definitivamente. Padoan mette poi in luce i tagli fiscali già fatti e l'impegno del governo a non far scattare le clausole di salvaguardia e l'aumento dell'IVA. Sul capitolo lavoro interviene anche il ministro Poletti con un annuncio: stabilizzeremo la situazione di fatto per cui i contratti a tempo indeterminato continueranno a costare meno. È tutto, linea allo studio. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Siamo agli esiti delle primarie negli Stati Uniti. Hillary Clinton per i democratici e Donald Trump per i repubblicani. Sono loro i vincitori del Super Tuesday, con 7 stati a testa. Il ciclone repubblicano Trump conquista aree moderate come il Massachusetts e il Vermont e altre estremamente conservatrici come la Georgia e l'Alabama. E vince anche in Tennessee, Virginia e Arkansas. Chris, thank you very much. I appreciate it. This has been an amazing Anzitutto grazie, è una notte incredibile, sembra che noi possiamo continuare a vincere, ha detto Trump commentando i risultati. Gli sono sfuggiti invece Texas, Oklahoma e Alaska che hanno votato per l'altro candidato Ted Cruz. Sconfitta pesante per Marco Rubio che riesce a vincere solo in Minnesota. La vittoria di Trump lascia il partito repubblicano diviso e senza una vera strategia. Il magnate newyorkese ha superato ogni critica e si appresta a diventare il candidato su cui il partito repubblicano potrebbe dividersi alla convention di Cleveland nel prossimo luglio. Per i democratici anche Hillary Clinton ottiene la vittoria in 7 stati, Georgia, Virginia, Tennessee, Alabama, Arkansas, Texas e Massachusetts, ma non riesce ancora a penetrare nelle roccaforti bianche progressiste di Bernie Sanders, che si aggiudica Minnesota, Colorado, Oklahoma e Vermont. E il team della Clinton sa che per vincere a novembre deve trovare un accordo proprio con Bernie Sanders e con le forze che stanno dietro alla sua campagna. Intanto la Clinton parla già da candidato ufficiale. What a super Tuesday! Che super Tuesday! Immaginate cosa possiamo fare insieme, ha detto esultando. Io credo che ciò di cui ha più bisogno oggi l'America è di amore e gentilezza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di tutto questo ovviamente torneremo a parlare tra poco in America 24 con il nostro Mario Platero a partire dalle 13.45, un ampio approfondimento. Parliamo adesso però di chiesa e pedofilia, perché è stata la terza notte di interrogatorio a distanza per il cardinal Pell in videocollegamento da Roma con l'Australia e ha tentato di difendersi, di scaricare qualche responsabilità e però non sembra convincere i giudici. Facciamo un punto su tutto questo con Carlo Marroni, Vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a te. Come dicevi giustamente, la terza testimonianza a distanza, quindi nell'ora notturna dell'Italia con l'Australia, il cardinale Pell, che è una figura molto importante perché è il ministro delle finanze del Vaticano, ha quasi 75 anni, è un conservatore, ma il Papa, diciamo, gli conferma la fiducia, almeno questo è quello che trapela dai Sacri Palazzi. Pell, appunto, su casi che risalgono alla fine degli anni, agli anni 70, quando lui era ancora parroco, diciamo, in Australia, ci furono dei casi di un prete che commise tanti casi di abusi ed è tuttora in carcere per 153 capi d'accusa. Lui ha detto: io non sapevo, sono stato ingannato, sono vissuto in un mondo di inganno. Il primo giorno aveva detto che sono cose gravi in cui la Chiesa ha comunque delle responsabilità, ma i giudici dicono non poteva non sapere. Oggi ha scaricato, stanotte ha scaricato la responsabilità su un suo predecessore, di cui ha detto: io non ho mai condiviso con lui le decisioni sullo spostamento di questo prete, che poi appunto veniva spostato da parrocchia in parrocchia e continuava a commettere questi gravi reati. Le deposizioni continueranno oggi, forse domani, e vedremo come andrà a finire. Ti ringrazio, grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Lo sentivate già nei titoli, il governo ha annunciato poco fa, per bocca del ministro delle riforme, Maria Elena Boschi, che metterà la fiducia sul DDL che riguarda l'omicidio stradale, un provvedimento atteso da tantissimo tempo. Dunque questa dovrebbe essere la versione definitiva. Abbiamo in studio con noi Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, che ci aiuta sempre in questi casi. Maurizio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, lo diciamo da un po' di mesi che dovrebbe essere la versione definitiva, quindi in realtà la prudenza è d'obbligo. Stiamoci attenti. Alla fine che cosa contiene questo provvedimento sul quale si andrà a votare la fiducia? Forse già stasera, se non sì, domani. Sì, dovrebbe mattina. Esserci una chiama per le 16, però non è ancora una notizia ufficiale. Questo è l'ultimissimo, questi sono gli ultimissimi rumor che vengono dal Senato. Dunque il contenuto dovrebbe essere quello cristallizzato alla Camera un mese fa, che prevede sostanzialmente le stesse pene di cui parliamo da tempo, quindi una pena base che oscilla da 2 a 12 anni con la possibilità di arrivare fino a 18 nei casi più gravi. Questo ovviamente va ben oltre il limite entro il quale scatta la condizionale, che è appunto di 2 anni. Poi c'è un ammorbidimento nel concorso di colpa, nel senso che il dimezzamento, cioè il dimezzamento della pena previsto in tutti i casi in cui la responsabilità non sia esclusiva del colpevole, e poi c'è nell'arresto in flagranza, che è un altro dei piatti forti di questo provvedimento, è stato tolto l'obbligo di arresto in flagranza quando il colpevole non commette omicidio, quindi ci sono soltanto dei feriti per quanto gravi, e si ferma per prestare soccorso. Questo C'era un dubbio proprio su questo fermarsi per prestare soccorso, no? A un certo punto si pensava che avrebbero tolto l'arresto in flagranza anche nel caso ci fossero state vittime. Diciamo che si è pensato un po' di tutto, perché ci sono state spinte e controspinte, ci sono anche gli ultimi emendamenti che vanno esattamente in direzione contraria, quindi arresto in flagranza per tutti, ma sono emendamenti che sono destinati a essere accantonati adesso con la questione di fiducia. Il punto vero qual è? Che in queste situazioni non la si fa mai giusta, nel senso che intanto il ferito grave potrebbe morire di lì a pochissimo e poi comunque anche bisogna valutare il comportamento dello stesso colpevole, nel senso che è anche a volte difficile capire se si sia fermato oppure no, perché poi uno in stato di shock si mette a vagare e oltretutto le ricostruzioni vengono fatte a posteriori, quando ormai molte prove sono svanite, non sono state prese, quindi è una materia che comporta sempre problemi. Ho l'impressione che il lavoro dei giudici comunque non si alleggerirà da questo punto di vista. Il nostro paese non è attrezzato, assolutamente no. Ti ringrazio, grazie a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Anche di questo torneremo a parlare tra poco. A chiudere questa prima parte abbiamo in studio il nostro Carlo Genta. Abbiamo un po' di cose di cui parlare, Carlo, perché c'è stasera naturalmente la Coppa Italia con Inter e Juventus. Partita abbastanza svuotata di significato dal 3-0 dell'andata, ma per mille altre cose sempre Inter Juventus. È sempre interessante e vedremo come andrà naturalmente. E poi c'è questa cosa che sta circolando in queste ore di una Champions League, di un'altra coppa, no? Coppa parallela, che non è certamente la Coppa Italia, ma c'è la voce di questa, voce confermata, riportata dal Sun, ma ci sono le prove documentali, fotografiche quantomeno, di una riunione tra i proprietari dei grandi club inglesi, cioè Manchester City, United, Liverpool, Arsenal e Chelsea, per così costruire una sorta di Champions League di inviti, una Super League, che vedrebbe le grandi squadre inglesi affrontare altre 8 squadre, grandi squadre europee come Milan, Barcellona, Real Madrid, Bayern, insomma circolano i nomi dei grandi club. Qual è la novità? Che non sarebbe legata al risultato del precedente campionato, cioè sarebbe una coppa a inviti, e questo perché verrebbe fatto per evitare, come accadrà l'anno prossimo, che grandi club inglesi, uno su tutti il Chelsea ad esempio, questi grandi club possono non partecipare alla Champions League perché altri outsider stanno andando forte. Ad esempio il Leicester di Ranieri, il Tottenham potrebbero contendersi il titolo, e gli altri big inglesi, qualche big inglese potrebbe rimanere fuori dalla Champions League. E quindi idea di Champions League parallela. Grazie a Carlo Genta, anche di questo immagino accennerete quantomeno, parlerete in tutti i convocati a partire dalle 14. Noi ci fermiamo, c'è il traffico e poi, come si diceva, subito dopo torneremo a parlare di omicidio stradale. Tra un attimo. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: c'è il rischio alto di nuovi attacchi terroristici in Europa, lo dicono i servizi segreti, che aggiungono potrebbero esserci infiltrazioni dai Balcani, è fondamentale la stabilizzazione della Libia. Il super martedì delle primarie americane vede vincere Trump e Clinton, sempre dunque più vicini alla nomination, mentre i repubblicani si spaccano proprio sulla figura di Trump. La gestione dell'emergenza umanitaria, sono in arrivo 700 milioni di euro per la Grecia. L'appello del Papa, giustizia e soccorso ai profughi. Il governo mette la fiducia sul DDL per l'istituzione dell'omicidio stradale. L'ipotesi di assalto degli azionisti ai vertici della banca. Sarà blindata l'assemblea di sabato della Popolare di Vicenza. Un centinaio gli uomini schierati. Di questo parleremo più avanti con l'avvocato che rappresenta una delle associazioni di azionisti. Intanto c'è un'ultima ora che riguarda il calcio. La UEFA ha escluso per un anno il Galatasaray da tutte le competizioni europee per il mancato rispetto delle regole del fair play finanziario. Lo riferisce la TV privata turca NTV. Buongiorno a Pina Cassaniti Mastroieni. Buongiorno. Buongiorno. Chi è la professoressa Cassaniti Mastroianni? Professoressa perché insegna in una scuola media, è una signora nel 1997, sua figlia, una ragazza di 17 anni, fu investita sul marciapiede davanti a casa e perse la vita. Oggi la professoressa Cassaniti Mastroianni è la presidente dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada e con lei vogliamo parlare dell'omicidio stradale. A quanto pare siamo finalmente alla svolta definitiva. Al punto d'arrivo, no? Sì, penso di sì. Vi soddisfa questo provvedimento? Ma guardi, noi abbiamo chiesto anche il voto di fiducia, anche noi l'abbiamo sostenuto, perché la debbono smettere i politici di fare questo avanti e indietro, fanno un lavoro e poi la Commissione Giustizia del Senato per esempio ha fatto un lavoro, l'Aula del Senato in parte l'ha demolito, poi è passato alla Camera, la Camera ha messo determinate cose, poi è passato nuovamente al Senato, cioè non è possibile gestire un problema in questo modo, cioè noi da quando è sorta l'associazione che chiediamo giustizia per le vittime, nel 2010 avevamo fatto il disegno di legge 3274 a firma dell'onorevole Barbaro e il 3 marzo è stato presentato alla Camera, sì. E chiedevamo che ci fossero pene da espiare per la guida in stato di ebbrezza sotto l'effetto di sostanze e per la guida azzardata e pericolosa, perché deve passare il messaggio che in una società civile, in uno stato di diritto, non si può non essere puniti allorquando si trasgrediscono pienamente le norme e si tolgono i diritti agli altri. Senta, c'è una cosa che vorrei capire. Il primo elemento è se la formulazione attuale del provvedimento vi soddisfa. E poi un'altra domanda più in generale sull'efficacia di una cosa di questo genere, ma ne parliamo tra un attimo e a domanda. Intanto mi dica se siete soddisfatti di questo. Guardi, l'unica cosa per cui siamo soddisfatti è che sento un passo avanti rispetto al nulla di prima, perché noi avevamo l'articolo 589 per il quale con la legge, con la proposta 3274 volevamo che fosse mantenuto l'articolo 589 con i due livelli di colpa, livelli di colpa lieve e livelli di colpa grave, ma con pene adeguate da espiare, cioè un livello di colpa semplice con pene da 4 a 7 anni e il livello di colpa aggravata con pene raddoppiate, cioè da 8 a 14, perché la pena si deve spiare. Quindi mi sembra di capire che siete contenti, contenti, però dice non basta per come la vediamo noi. Sì, dopo si discuterà, però questo passo si deve compiere. Per cui noi abbiamo chiesto che si facesse anche che ci fosse anche il voto di fiducia. L'importante è che si decida questa legge, cioè questo passo si deve decidere. Lei deve pensare che nel 2006 c'è stata la legge 102 per la quale noi ci siamo impegnati, eccetera, lo sa che quali cambiamenti ci sono stati? Hanno elevato di un anno il minimo, quindi da 1 a 5 anni l'hanno passato da 2 a 5 anni. C'è un modo per prendere in giro le persone, cioè non è giusto che che la giustizia operi in maniera da sostenere chi compie un reato. Senta, perché fino ad ora è stato così, quindi dobbiamo vedere. Mi scusi, vorrei capire questo. Quello che molti si chiedono e se lo chiede in realtà anche qualche magistrato, come lei avrà visto, cioè all'interno della stessa magistratura c'è una certa spaccatura sull'istituzione di questo reato di omicidio stradale, cioè dicono insomma alla fine non è che serva moltissimo, ecco. Passiamo a vedere, cioè voglio dire, quello che c'era prima non è servito a niente, adesso facciamo questo, guardi, togliamoci ogni pregiudizio, ogni cosa, che cos'è questo omicidio stradale, alla fine è 589 bis, per cui secondo me è sempre nell'ambito dell'omicidio colposo, ma a me non interessano le definizioni giuridiche, a me interessa che colui che toglie agli altri la vita trasgredendo consapevolmente e volutamente le norme e spie una pena, cioè a lei gli ammazzano una figlia, un padre, una madre ed è come se niente avessero fatto e noi lo giustifichiamo, ma allora i primi a dover educare alla legalità sono proprio i magistrati, quindi smettiamola di analizzare il problema, il problema è gravissimo. Tra l'altro mi scusi, com'è andata a finire invece la vicenda giudiziaria, come dire, che riguarda la morte di sua figlia? Beh, la vicenda giudiziaria, ve l'ho detto tante volte, si è conclusa con l'ambiguità della sentenza del conducente alla guida, perché ripeto e lo torno a dire, a Messina tutti sanno che ha ucciso Valeria Mastroianni non è la persona che è stata perseguita dalla giustizia, perché ha operato la giustizia con una superficialità vergognosa. Ma non mi interessa più di fare tanto per dire cose, a me interessa che tutti sanno che ha ucciso Valeria Mastroianni. La giustizia non ha operato in maniera da far venire fuori la verità, perché ha tante di quelle strettoie diciamo burocratiche, la giustizia, per cui, tanto per dire, il processo per rito abbreviato si fa allo stato degli atti. Allo stato degli atti non c'era la testimonianza perché se l'erano tenuti i vigili urbani nel cassetto. Guarda, no, è una cosa veramente vergognosa, per cui anche la legge, ecco, per essere, quindi diciamo valida, così, il colpevole quello che lei ritiene essere colpevole non si è fatto nemmeno un giorno di galera, in sostanza. E quindi, per cui io quello che dico, questo perché può avvenire? Perché chi per esempio si sostituisce a un altro ha tutto da guadagnare e niente da perdere, perché se il tizio che si sostituiva doveva abdicare alla propria libertà per 4 anni, per 5 anni, lei pensa che l'avrebbe fatto? No. Ma se uno alla fine carcere non ne fa, soldi non ne paga perché paga l'assicurazione, alla fine viene pagato, insomma, ecco, ci sono le condizioni per fare come hanno fatto con Cristo, e si sono spartite le vesti, cioè con il sangue di mia figlia ci hanno lucrato. E quindi il discorso è questo, la pena la devo espiare. Ecco, non ci sarebbe neanche questo problema di pensare, sono cose reali quelle che sono avvenute, è chiaro. La ringrazio, grazie a Pina Cassaniti Mastroieni, presidente dell'Associazione Italiana Familiari delle Vittime della Strada. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati e poi nella seconda parte della trasmissione parleremo col presidente degli azionisti associati della Banca Popolare di Vicenza, che è chiamata sabato all'assemblea con ieri un aggiornamento dell'inchiesta. C'è anche un filone di indagine che comprende l'associazione a delinquere, un'assemblea molto tesa con 10.000 persone, e in queste ultime ore appunto è circolata la voce che alcuni azionisti volessero presentarsi prestissimo in assemblea, molto presto, registrarsi, mettersi nelle prime file e poi al momento dell'inizio dell'assemblea di fatto assaltare i vertici, e con l'avvocato ne parleremo a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. C'è un rischio alto di nuovi attacchi terroristici in Europa, è quello che dicono i servizi segreti nel loro rapporto annuale, e che parlano anche di rischi di infiltrazione dai Balcani. Il super martedì delle primarie americane, hanno vinto Trump e Clinton e sono sempre più vicini alla nomination, anche se scontro all'interno del Partito Repubblicano proprio sul ruolo di Trump. Notizia di pochi istanti fa, ci sono stati 9 patteggiamenti e un rinvio a giudizio a Torino nella vicenda delle irregolarità nella raccolta delle firme di alcune liste che sostennero la candidatura di Sergio Chiamparino alle elezioni regionali in Piemonte. Il governo, come avete sentito, ha messo la fiducia sul DDL per l'istituzione dell'omicidio stradale. Ci sono state proteste del Movimento 5 Stelle, vogliamo votarlo. Adesso sono arrivati i dettagli della calendarizzazione. La prima chiama per il voto di fiducia sull'omicidio stradale sarà alle ore 17. Alla borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E adesso parliamo della Banca Popolare di Vicenza. La vicenda è, come dire, tra finanziaria e giudiziaria, però vogliamo occuparci nella fattispecie di un fatto di cronaca, di un pezzo che abbiamo letto sulle pagine locali del Corriere della Sera, che, devo dire la verità, ci ha incuriosito molto, perché ci sarebbe stata un'ipotesi che alcuni soci si organizzassero, come già vi dicevamo prima della pausa, per arrivare molto presto nell'assemblea. Sarà un'assemblea di forte tensione, sono convocati 10.000 soci e, come dire, andassero a prendersela con i vertici, cioè arrivare presto in assemblea, sedersi davanti e poi di fatto assaltare i vertici. Saluto Andrea Arman, buongiorno avvocato. Buongiorno a lei, io le correggo subito, nessuno ha mai parlato di assalti. Presidente degli azionisti associati alla Banca Popolare di Vicenza, nessuno ha pensato ad un assalto ai vertici, no? Sappia io, no, ma poi se c'è qualcuno che lo vorrà fare, ma fra le nostre associazioni... Se c'è qualcuno che lo vorrà fare, lei sosterrà questa cosa? Non sostengo, ma mai ho sentito usare questo termine, ecco, neppure dal giornalista del Corriere che mi ha intervistato ieri. No, perché pare che insomma qualcuno sia entrato in un bar dove si stava cercando di attrezzare questa cosa. Poi la città è abbastanza piccola, Vicenza, tutto sommato, quindi insomma, no? Non lo sa. Non lo so. Allora, ripeto, la cosa mi diverte parecchio. Mi sembra impossibile che azioni di guerriglia vengano organizzate, come ha scritto lui, nei bar. E poi vorrei sottolineare una cosa, che se anche fosse in questi giorni per i bar su questa vicenda, io credo che probabilmente questo è stato il discorso meno teso, perché di fronte a 100.000 persone che sono state messe letteralmente in mutande, probabilmente qualcuno avrà pensato o avrà detto, ma poi fra il dire e fare c'è molta distanza, di fare azioni ben più eclatanti. Ben più eclatanti, dice. Sì, ma penso che questo sia stato detto, anche perché l'ho sentito anche io, bisogna prendere le armi, bisogna fare la rivoluzione, tutti i soliti discorsi che poi non conducono a nulla. Benissimo, mentre invece, come dire, sarà un'assemblea pur blindata, tra l'altro, no? Perché ci saranno 100 uomini delle forze dell'ordine, cioè addirittura è stata... Ma guardi che la blindatura non è dell'assemblea, la blindatura, quella vera, quella pesante, è stata dell'informazione. Noi abbiamo vissuto questa vicenda che vede coinvolte praticamente tutta l'economia del Veneto, tutti i cittadini, risparmiatori e non risparmiatori, aziende e dipendenti. E abbiamo visto questa vicenda sotto una cappa di piombo pesantissima di censura, non so se imposta o volontaria, da parte degli organi di stampa. Si figuri che noi, per essere pubblicati come fronte del no, facciamo le pubblicazioni a pagamento, e in questi giorni ci sono state rifiutate persino le pubblicazioni a pagamento, tanto per rendere l'idea. Questa è la vera blindatura fastidiosa della vicenda. Quella dei carabinieri, se ci saranno sabato, è una blindatura benvenuta. Benvenuta, dice, così si evitano, come dire, rischi dal punto di vista. Però vorrei che lo stesso impegno dalle parti delle forze dell'ordine e della magistratura ci fosse anche per far chiarezza su questa vicenda. Beh, insomma, mi sembra che no, ieri addirittura è scattata l'indagine faccia conto per che la storia ha 8 mesi. Sì. E che le prime denunce sono state fatte, almeno a quel che si dice, io di questo però non ho prova, anni or sono, ma da 8 mesi la magistratura sta indagando su questa vicenda. Adesso, un po' così ad orologeria, escono queste notizie che mi fanno solamente piacere. Però, ripeto, vorrei che la grande attenzione venisse riposta, naturalmente, per tutelare l'incolumità e l'ordine pubblico sabato. Certo. Ma per far chiarezza su quella che io non esito a definire essere la truffa del secolo. Allora, io la ringrazio. Tanto noi, guardi, ci occuperemo, perché lo sa, insomma, siamo a Radio del Sole 24 Ore, di queste vicende ci occupiamo costantemente. Grazie intanto ad Andrea Arman, presidente degli azionisti associati della Banca Popolare di Vicenza. E adesso vogliamo ritornare sulla vicenda dell'FBI e dell'iPhone. Dell'FBI che, come sapete, vuole accedere ad un iPhone che era di proprietà di uno degli autori della strage di San Bernardino, una strage evidentemente di matrice islamica. La Apple ha opposto un rifiuto, ha detto non voglio bucare questo iPhone perché questo creerebbe un precedente molto pericoloso. Ebbene, nei giorni scorsi, in un processo italiano, è successo che un iPhone è stato bucato. Si tratta di un iPhone con un sistema operativo precedente. Il processo è quello della famosa coppia dell'acido. Noi abbiamo parlato con il perito informatico che si è occupato di questa vicenda e ci ha dato qualche dettaglio interessante. Lui si chiama Mattia Epifani. Allora, no, non direttamente, perché sapevamo già che Apple non dà il suo supporto dopo iOS 7, cioè dopo la versione 7 del suo sistema operativo, non fornisce più supporto alle forze dell'ordine e ai tribunali in generale. Quindi, sapendo già la risposta, diciamo, non abbiamo interpellato neanche Apple, ma abbiamo cercato di individuare soluzioni alternative. E in questo caso specifico, trattandosi di un telefono che è stato sequestrato nel dicembre del 2014, ovvero diciamo quando Becher e la compagna sono stati arrestati alla fine del dicembre del 2014, questo telefono nello specifico aveva ancora la versione iOS 8, cioè la versione 8 del sistema operativo, che al momento in cui il telefono è stato sequestrato non era, diciamo così, violabile. Ma nel frattempo, attraverso studi e ricerche fatte in particolare da questa società israeliana che si chiama Cellbrite, sono riusciti a individuare delle vulnerabilità del sistema operativo iOS 8 che consentono a loro di ottenere, estrarre il codice sostanzialmente. Senta, nella sua esperienza, visto che appunto è un informatico forense, perito del Tribunale di Milano, immagino che vista la diffusione dei dispositivi iOS, questo sia un problema che si verifica abbastanza spesso. Certo, assolutamente, ed è diciamo un problema con cui noi ci imbattiamo quotidianamente. Ovviamente in questo caso, essendo un caso molto famoso, mediatico, ha avuto un risalto la notizia. Diciamo che per quello che so io, in Italia è la prima volta che si utilizza questo servizio su iOS 8. Diciamo, su iOS 9 allo stato attuale non ci sono tecniche note, seppure esistono tecniche che possono essere applicate per superare, bypassare il codice, ma queste devono essere applicate nell'immediatezza. Quindi teoricamente, mi scusi, anche con iOS 9, se il sequestro avvenisse appunto nell'immediato e qualcuno che fa il suo mestiere da questa o da quella parte dell'oceano potesse lavorare sul telefono, in teoria potrebbe, cioè c'è un metodo per accedere? Esiste un metodo, nel senso che nel momento in cui il telefono viene acceso bisogna avere sostanzialmente a disposizione due cose: il telefono e un computer che sia stato utilizzato in un qualunque momento per collegare il telefono, anche semplicemente per scaricare le foto o collegarsi ad iTunes per scaricare della musica, perché quello che succede è che nel momento in cui noi colleghiamo il nostro dispositivo iOS a un PC o a un Mac viene generato una sorta di certificato di autorizzazione, quindi sostanzialmente un file. Questo file permette di accedere alla memoria interna del telefono anche senza conoscere il codice, ma questo certificato è valido solamente se il telefono è stato sbloccato almeno una volta dalla sua ultima accensione. In questo momento quanti casi sotto mano, per così dire, ha da affrontare che coinvolgono il sistema operativo iOS 9? Negli ultimi mesi me ne sono capitati almeno una quindicina, in due casi, proprio perché abbiamo operato a supporto della polizia giudiziaria in fase di sequestro con questa tecnica che citavo prima, nell'immediatezza siamo riusciti a estrarre i dati. Negli altri casi attualmente siamo fermi sostanzialmente. Il traffico, Mario Platero ci parlerà ampiamente delle primarie americane. Ci risentiamo alla fine per i saluti.